la prova. Con l'Aurora? Gianni Cacarella. Ah, Luca Manicomio. Gianni Pesicella. E beh, già. Ciao Luca. Scusa che mi stavo sistemando, che sono tutta dolori, mamma mia. Ehi, ha già. E beh, un altro non mi ha chiamato comunque. Ma lo so, io ho dato il numero, mi ha detto più che altro mi interessa prima il computer, perché ce l'ha fermo, carica batterie, praticamente non può più usarlo perché non entra. Hai visto cosa succede? Che si rompono sempre quelle entrate, se non stai attento mettendoli, quegli spinuti sono un bel delicato. Ehi, già, là, vabbè, dai, già, ve la diamo una sciacquata, veloce, ci sentiamo fra 10, 4 ore, 20. Ehi, sono qua. Vabbè, comunque, quando vado glielo dico, ma non l'hai chiamato quel mio amico? Ti ho dato il numero, capito, ti ho dato il numero, gli ho detto, guarda, chiedi tu quelli che te l'ho detto io. Ehi, vabbè, non c'è problema. Guarda, sta entrando gufo su 10. Gufo! Che lo vedo? Aspetta, sta piazzando il baracchino, già arrivo subito. Via. Luca, ci sei? Gufo, Luca è andato un attimino a fare una cosa, sta arrivando subito, ciao, ben sentito. Ciao, ben sentito Gianni, come sto uscendo? Va bene, va bene. Meglio così. Eri da molto che non lo usavi il baracchino. Cosa? Questo era da molto che si è attaccato. Perché tu vai sempre nelle PD così, e ho il PMR, c'è il PMR. Se prendo PMR il più sono. Lo so, a me però non mi piace questa frequenza, mi piace più qua, almeno si sentono tutti lì. Uno lo senti, l'altro non lo senti, lui. No, ma io con l'antennino esterno già sento a tutti, e poi mi sentono tutti. L'antennino esterno non si può mettere, infatti è questo. Comunque, anche col gommino già, quelli della pelloccia li sento quasi tutti. Anche col gommino già lo adopero spesso, il più lo adopero col gommino, perché perlomeno anche col gommino lo sento quasi a tutti, capito? Tra con il sorso che non riuscivo a sentirmi ultimamente. Beh, prima mi sentiva, adesso non mi sente più. Ma tu cos'hai cambiato? La posizione? No, l'antenna esterna è sempre nella stessa posizione, è sul tetto e a un fianco, a un metro c'è la mantova e sotto c'è quella là, è più in basso, capito? Ma che antennino è? Quelli di macchina oppure quelle grandi? No, l'avevo comprata una 30, però adesso me ne dovrebbe fare una lunga, tipo quella del televisore, come si chiama? Che la puoi girare, come si chiama? La direttiva. È una direttiva, mi sta facendo piccola, non grande. Già lo so. Vabbè, ma l'antennina direzionale, la devi girare tu, non è un'antenna che guarda tutte le parti. Già lo so, ma io mi devo far procurare. Gira. E gli faccio collegamenti. E la posso girare azzurra, con la cremagliera, capi? Aspetta che vado a fare qualcosa, vediamo qua, va. Grazie, ma ho detto gira. Ne stacchi la pentolina e gli attacchi un tubo in alluminio fine, non grosso grosso. Grazie, lo gira adesso. Cosa devi girare, grazie? Cos'è che devi girare? Non gira nulla, no? La direttiva. Un cannauri lei la fa girare, cosa devi far girare? Lascia perdere. Oh, niente è strano che non c'è bisogno, se la sollevo un altro 2 metri perché è più sotto della mantova, capi? E dovrebbe riuscire a prendere più bene. Non so, io ne ho giocato di motore e contromotore, non ho già tempo che ti ha fatto, basta un maestrale forte, ti sgrana il motore, ti sgrana il cuscinetto e ce n'ha più tutto. È una rottura di balle, grazie, lascia perdere. Ma cosa c'ha? Blocco, blocco, pure in gira se c'è il vento, se, o c'è un blocco per bloccare. Quelli seri, quando c'è voi c'è il blocco, ma se devi mettere una direttiva leggera e piccolina così, cosa compareggi? Un rotore costa 350 euro. Non puoi che Graziano ti rampiare di Napa a far girare una direttiva UBMR, no? Cosa vi fa girare? Poi ci sono quelli della Stoller, che costano 60 euro, i rotori, che sono quelli delle parabole, Luboni, secondo che al vento arrivi si butta rotore e antenna. No, ma al limite sempre di una giugana, me lo autocostruisco io, capito? Un motore di lavatrice, vuoi pulire? Così quando fai girare l'antenna centrifuga. Ehi, chi si tira la lavatrice mia? Fare un elicottero quando comincia a girare. Sta rurigliana che ti crebba la reccia e poi già l'hai sentita l'altra volta, la mia lavatrice. Già l'ho sentita, già l'ho sentita. Riprendi già, riprendi. Già sono qua io, dai. Sta piovendo. Sto facendo qualche cosetta giusto per ammazzare il tempo. Sono col baracchino, già mi senti bene lo stesso. Ehi, sì, sì, va bene. Andare. Perché questa lavatrice? Cosa le ho messo il turbo io adesso? Ah, perché credi che io un bel di voci, anche se la giubbotta è interrato, gli ho fatto lo scarico e ti sono piazzata lì. L'altra volta l'ha giubilato nei pratico. Ma tu devi vedere ogni velocità che c'ha quando fa la centrifuga. Da spavento, da paura, e una mantengo burlava, perché chi sa bigliare voi? Allora, sono con Bicelli a tirarmi il motore a piazzarlo sotto la moto, vi faccio. E dico con chi ci vuole? Davvero? Guarda che dà paura quando fa la centrifuga. E io mi assusto, chi ci abbiglia il robot? Devi vedere quanto gira, una cosa qua è impressionante. Non vedi manco la roba, non vai in usa, vedi? Questa cosa sta sempre girando, ma una velocità qua spaventosa. Lo so, anche la mia con la centrifuga è così, prende velocità. Adesso ultimamente mi aveva regolato i pesi, perché si metteva a camminare anche quando faceva la centrifuga. Ma chi c'hai da spavento, Bruno? Da quando sei barrato, perché deve esserci il cuscinetto sballato? Perché fa un casino quando fa la centrifuga. Ti sto dicendo, Bari, la turbina dell'aereo, presente. Così. E tu mi pare che abbia dato il sacro motore turbo. Boh, io sarò la liana di cucina che ti crema le timpani, non intendi nulla, Ma di qual è? Quelli che c'hanno l'uomo grande? Cosa? No, l'avevo comprata questa, sarà un 6-7 anni fa, e da 8 kg. Mia moglie un giorno ci ha messo un piumone più grande, più pesante di 8 kg, poi tu figurati quando era zuppo, le facevi a barrare il cuscinetto, è nuova, nuova la lavatrice. Ma fa un casino qua, allucinante. Alla dimmo io, gli dico sempre, ma la battrice si attacca. Ciao mi. Allora comincia a approcciarsi. No, vabbè, così mi aveva rotto contro l'albero che fa girare. Mi si era spaccato. Infatti ce l'avevo cambiato, lo blocco con l'albero. 200 euro, potevo comprare la battrice, però mi ha detto, come queste qua, Whirlpool, con le cose in acciaio, con le cestelle in acciaio, i granaggi tutti in acciaio non le fanno più. Quelle che fanno sono tutte in plastica, dopo l'anno ce la butta via. Se la vuole tenere, dice, sono soldi spesi bene. Se no la cambi, gli ha detto, però glielo sto dicendo come le fanno adesso. No, quelle di adesso sono tutti in plastica, devo dire, no, chi c'ha già le cestelle in acciaio, è grande il figlio. È furbizzante, è grande come si può la battrice. però da quando si è imballato sul cuscinetto si crema prima, manco la sentivi prima, fammi che non era accesa, ma va, io ce ne scappo il libro, e pensare ce l'avevo l'altra lavatrice perché ne l'avevo levata, me l'ho messa nel pianerottolo e l'ho controllata e me l'ho messa a posto. Ma così intendia, figlio che io ma che mi la gioventù, va, mi la buviate lì. E così avrei controllato questa, avrei aggiustato questa, al pianerottolo, perché l'ho aggiustata a tempo perso, capito? Invece me l'ho venduta a due città buio, ed era nuova, te la cambi lo stesso, io. E la roba nuova, solo il cestello era di 5 kg, questa mia moglie l'ha voluto più grande, per quello che l'avevo cambiata. Però Guida, era un bonbon. Oh, il piumone bisogna portarlo alla lavare a secco, secondo che piumone se di dici grossi non ce la fa la mia. Se sono di quei piumoni estivi, quelli sì, quelli più fini ce la fa. Ma questo grosso che ho adesso, oh, bisogna portarlo alla lavare a secco a lavare. Ma siccome io ce li porto alla lavare a secco, e da non mi ha detto nulla ce l'ha attaccato dentro la lavatrice la volta. Se no in genere quelli grossi, quelli pesanti, li porta a lavare secco a lavare, e non che vicino, ma non mai so niente, la volta ce l'ha messa a lavare. E la bella canto per la vasia girà che era un bel pesante isso. Ma un per non l'avrà bruciato il motore, capito? Però gli altri piumini leggeri già li lava, però quello pesante non è più lavato dalla borsa, li porta a lavare secco. E quello non conviene, perché quando ci sta l'attaccatura non li lava nemmeno bene, perché non c'è lo spazio per lavare, girano bloccati e quindi cosa lavano? Non lava niente, di bagno. Ma se la roba deve muoversi per lavarla bene, si deve muovere, se non si muove è tutta attaccatura, non lava nulla bene. Già lo so, infatti non è che la fa adesso piena piena la lavatrice. Infatti va di due, tre lavalli anche a certi giorni, capito? Ma prima no, non va fatto un gas ed essere attaccata a puzza dentro. Ma chi figurati? Quando era grosso, manco ci entrava e lì ce l'ha entrata a forza. È per quello che l'ha sballato il cuscinetto, no? Tu immaginati poi quando era zuppo di acqua, cosa ha lavato? Non ha lavato nulla. Infatti la bella se l'ha buttata a lavare secco. Ma infatti non conviene. Poi a stendere un casino, è pisanti, non è che sia il massimo. Invece la base può trovare già tutto pronto, già pronto da mettere. E anch'io ne devo portare uno perché deve essere... Mi è uscito sangue dal naso, coso, e l'ho macchiato. E l'ho macchiato e... perché a volte dopo pranzo mi sdraio sopra, io senza munirmi di pubblici. E sicuramente mi è uscito sangue dal naso e l'ho macchiato. L'ha pulito quando l'ho tolto dal mobile. Adesso... Quindi nelle caverne piano piano questi gambi sono puliti dentro le buste della lavatrice, quelli li ho conservati nel soppalto, no? Adesso ci ha messo quelli estivi e ne ha sceso quelli invernali, perché mi ho fatto tre soppalti io, perché ne ha un bel naso, un primo, e fa il cambio, no? Ogni anno va di vicino, si pone la roba estiva, la lava pulita la mette in quelle buste che ha spigli, che le stringe e poi nei paraisi invernali, capito? C'ho quei sacchi che con la spiraforte le aspira l'aria e lo restringe. E anche io ce l'ho, che ce l'ho con la lava, sì, ce l'ho anche io. Anche io faccio così la stessa cosa, mi cambio e via. Vediamo se Claudio vuole entrare, è finito di fare le cose tue, Claudio. No Gianni, sto saldando, mi sto ascoltando, sto saldando, mi sto facendo delle ispezioni che ho preso dei PL, sono arrivati dei PL nuovi, sto facendo delle ispezioni, possono sempre servire, giusto così per ammazzare il tempo, Già sono qua, vi sto ascoltando, già entro dopo, riprendo. Ehi, ma avvicinati da fuori da un amico che vende materiale per radioamatori, un pacco di PL Amphenol da 10 PL 15 euro. Bella, non è meno tanto. E se conosci il sito voglio vedere anch'io, perché io non ne ho più di quelli con la batidite marrone eccetera, se, adesso ce li ha solo bianchi, non i bianchi che hanno visto, tanto è vero che avevo un carro fatto e le ho svoltato il piede quando mi è servito per mettere l'antenna della macchina, le ho svoltato perché quelli sono marrone, sono migliori. Non fa vedere i bacchi di te marrone, io che non sono bacchi di te marrone, no. Questi sono Amphenol, quelli in tenfon giallo, alta temperatura. Vai a comprare questi PL, costano mi pare 4-5 euro l'uno, capito? Io ho questo amico e ogni tanto lo chiamo, mi manda connettori N, barilotti N, barilotti PL, un po' di attrezzatura, dai. Capito? L'ho conosciuto in fiera e c'ha i PL Amphenol, cioè di marca, PL che costano una barca di soldi, non in bacchilite marrone, no. Sono quelli in bacchilite gialla, in teflon giallo duro. Sì, lo so, quelli di Amphenol sono migliori, però quelli in bacchilite marrone sono sempre migliori di quelli in plastica bianca, che quando vai a soldare gira tutto, si scioglie la plastica e gira tutto quanto, fa caldare, non è così di lisci. A parte, grazie, lascia un po' di spazio che si vuole entrare gente. Qui ci bianchi non serve a nulla, anche quando scalda. Se non stai attento quando io ne sacco sempre il filo dell'antenna, si è caldo, è l'utile bogo bogo, ne è sceduto, si dilata, non servono a un tubo quelli. Infatti anche io me l'avevo fatti arrivare 4 da internet e li ho ordinati, però in bacchilite. Sì, ma le macchinette possono ancora andare bene, perché già resistono il calore. Ma io di plastica proprio non si vede a nulla. Ma carità. C'era Luca, mi ha detto, siamo sul 10, tu senti l'epoca. Sì, mi ha detto, dì a Gratello che sta arrivando subito. E mi ha detto così, sicuramente se va a cambiarsi, vuole fare qualcosa, non so. E vabbè, dove ce l'hanno trattenuto? Evidentemente se prendi la merendina. Ma io l'ho già fatta. 2, 3, 4, 5 le fette di salsiccia, devi saffaticare, devo che muore. Grazie, con la salsiccia affumicata le provo. Già la compro anche io. Di ordino, ho quel negozietto che c'è qui alla Feloce. C'è un negozietto piccolo che ci sono delle ragazze, portano tutta roba sarda, anche l'affettato, formaggio, ricotta, mustia, affumicata, normale, il pane tondo di uso lo porta anche. Già ci vado lì, già ce l'ho già, la domani da mezzo lì anche il formaggio. L'ho fatto oggi, a chi rimane a domani a gruppo, caloroso, guida di tutto. Oggi un risotto in bianco, con un filo d'olio d'oliva, un po' di parmigiano. E poi, secondo me, ho mangiato un 5-6 fettine di formaggio, di quello buono, morbido, sardo. E un paio di rotelle di quella salsiccia affumicata, saporissima, buonissima, pane nuda. E infatti mi alzo da maggio misurato la glicemia, 254, quello è il formaggio. E se c'è formaggio non va a fare cosa, ragazzi. Lo so, ma che a me fa così. E adesso all'altro mese chi si imbecille mi ha detto a misurarmi la glicemia anche 2 ore dopo che mangio. Così vedi canto villaggio asca. In genere quando mangio così mi ci sale, quando mangio anche il formaggio. Per non salire ti devi mangiare pesce, poco pane, poca pasta e pesce. Ma io il pesce non è che ci vado matto, io mangio il polpo, mi ce l'ho in frigorifero, infatti mi sono dimenticato a mezzogiorno il polpo e insalata che ho fatto sabato, quello che mi è rimasto l'ho messo nel frigo. E la giuntura che ho mangiato, se no mi avrei mangiato quello, a forse mangiarmi la salsiccia e quel formaggio là. La giuntura. La giunta bruciante, ma non vedevo molto mi sei uscito da capo, ma che caso ci avevo fatto io nel frigorifero? È vero, biatto, quello che mi è rimasto, l'ho messo tutto al piatto, e domani mi rimane, invece a rimane non ha giovaniato, l'ho invitato la mia figlia, capi, e vira di tutti. E già ne ha approfittato, però ieri invece ce l'avevo 185. E nonostante mi ho mangiato lasagne, gambaroni, e bella di giusto, banzetta, capocollo, salata di mare, con questi scorsi arancioni, cosa cavolo so, polpa di granchi, tutta quella cosa così. E mi ha giunto pure 3 tazzetti di vino bianco. Non si sono trattato male, ma dopo ti lamentichi intanto la crocevia. Però per dire, ce la fai da 185, con tutti ci mangiamo. Ai gambaroni, vedi. E beh, il riso che te l'ha fatta salire anche, il riso contiene carboidrati, grazie, il riso è micidiale come la pasta. All'ospedale mi dà un'unia del riso, ero di 20 anni chinese, che mi dice anni, lei deve mangiare il riso per il problema che c'è all'intestino, e già lo so, farò massa la glicemia, già lo so quello. E tutto non si può avere, mi dice, dammelo un riso. Ti facevo una cosa e ti facevo all'asso, tu via. No, io prima non ne mangio tutta la settimana. Il primo lo mangio solo la domenica e basta. Tutta la settimana mangio insalata, mi faccio cose di così, melanzane al parmigiano, e la fettina la mangio su quasi sempre perché pesce ne mangio poco, mangio solo, mi faccio il pesce, quello, il merluzzo, i fileti di merluzzo, me li faccio alla pizzaiola, con i capiti. Polpi, calamari, granchi, questo pesce così, gamberi, aragoste, anguille, questo pesce così, proprio pesce a pesce non è che ne mangi assai, non lo mangi assai, che ne mangi un mese, sempre famiglio. E la sardina ce la mangiamo, ti piace? Oh, sono rientrato, aspetta un attimino, 2 secondi, scusate, Gianni. Aspetta. Ok. Stazionarie, ma così in muove, 1-1 su 10. E a dove sei? Là sì. Ho capito. Chi è che mi stava accettando di passare, o Graziano? Io già, vabbè, sono vicino, Graziano. Vabbè, adesso se ci riesce a passare. Ma sono vicino, 1, 2, 3. Ne ti passava del brutto a me? A fianco a me, ma lo passo io o mi passa lui? No, ti passa lui, ma se sono come ti date su quella sala della marina, so come vicino a me, capito? Io abito alla terza e lui alla sesta, mi va. No, ho capito, che sono gatti bene, grazie. A chi è che passa, Gianni o io, se io sono vicino a te? Tu copri a lui. Ah, infatti mi voglio andare, tanto non è. Anche così, anche così qua. E grazie a me dietro di me, capito? Capito, ah già. Ah, già capito. Oia. Ma comunque già va bene, mi viene a caccarare, mi viene a regolare. Arbassa. E passa, bassa. Me la vedi? Allora, aspetta, allora, nel 10 c'ho 1,1, proprio 1,1, poco a poco si muove, poi al 40 1,5, 1,4. Però cosa mi ha detto, come si chiama? Antonio Riserva che bisogna tagliarmi un po' di centimetri in punta, per tenerla bene. E poi magari ci fai male e ti darà. Se vado male ti darà un po', ma vabbè, lo vedo lo stilo, cioè, c'è la bricco, ma voglia, è l'alluminio. Ah, l'alluminio. Allora, prova, passando un pezzettino, ma piccoli tesi, giù. Beh, no, ma io passo. Centimetri, boh. Io per dire, nel turbo 2001 non ne ho tagliato quanto un pezzo, l'ho regolata, ma sempre la sala. Era 1 euro tutti i canali. E anche nei canali alti, massimo sale a 1 e 2. Luca sempre stava andando una grimazza, imbustata, 50 euro. Come? No, 50 la sta dando, si è abbassato di prezzo. E tu devi darmela, solo che... Boh, adesso vediamo. Certo! Se la sta regalando a 50 euro, ma se scherza non costa 170 euro di quella lei. Sì, ma, regalandomela, sta pagando il bilancio, non mi regala nulla nessuno a me. Ecco, se farà con prezzo lì è regalata. Oh, io mi sono tirato una di quelle casse bomba. Ammazza quell'ecco, già non si compra una mazza di chi su chi di, boh. Ora pronubis, amen. Giulio Dollaro, amen, pace fratello. Ciao Luca, e infatti ora pronubis era appunto quello che volevo intendere, che Gianni è in chiesa, si trova in chiesa stasera, non è a casa sua, è in chiesa, con la chiesa completamente vuota. E tu fai il prete. Ah, faccia che sono una specie di coscifuso. Oia, quello lì, raffreddore, vero? Una volta che porto la luce mi si dà paura un naso, boh. Già, comunque abbassa quell'ecco, non si comprende nulla. E guarda se va bene, invece l'ho toccato un pochino senza volerlo, Luca. Prova a vedere adesso se va bene, guarda, 1, 2, 3, 4. Insomma, ma è alta quella modulazione, boh, vero Giulio? Non si capisce niente, continuate che io non c'entro, che sto facendo cosa, dai. Guarda a vedere adesso, magari spolverando l'ho toccato, ciao Giulio comunque, spolverando invece l'ho toccato. Luca! Molto, vabbè. Avanti, grazie. Ah, se riprenditi che sto guardando una cosa qua. Ecco, chi parlo col culo, chi tu non rispondi, tu non rispondi. Giulio si è andato in con X, e con chi parlo? Sto guardando un pezzo di carne che non so se era brodo o pezzo qui. Boh, mi pare brodo. E tu scongelare, tu lo sai. E infatti, mettila a scongelare, cosa? Non si vede, boh. No, perché questo è un pezzo? La scongeli come una sorpresa per domani. O c'è brodo o c'è spezzatino, due giorni così. Domani ci abbiamo brodo di pollo noi. No, brodo di manzo mi sembra, questo pezzo. Di più meglio che c'è. Di brodo di pollo per me è il più buono in assoluto. Meglio di quella della carne di manzo. Siccome ne avevo preso, mi pare erano 2 chili e uno sobbucco. L'altra volta ho cucinato un pezzo di chissà carne tutto a polpa. Io me la faccio dare, non la compro la pancetta, compro la polpa. Un pezzo di polpa e l'osso. E l'ho divisa, l'ho messa nelle bustine, capito? Perché io poi, dalla carne, da quell'altro pezzo che metto a parte, lo scongelo, lo taglio e mi faccio un pezzettino, capito? Sì, aia, grazie. Andave, anche io faccio così, quando prendo la macinata me lo faccio, prendo un pezzo di polpa e me la faccio macinare, non li piglio mai, perché c'è i trucchetti che fanno. No, la pancetta fa schifo, quando un goccio esce tutto rosso, per carità, mi ha fatto il filo che sta trappato di su la bocca che l'ha giubata, non ho mangiato. Brodo di pollo, ci metti dentro uno o due salamini e insaporisce molto molto bene, meglio dell'amandro. Giulio, lo so, ma già faccio, io faccio una volta di pollo, il brodo e una volta di manzo, perché anche il manzo fa bene, capito? Ed è anche molto più digeribile, oltretutto, perché a volte il manzo fa anche a bruciore di stomaco, se ti rimani una gattarella. Sì, se mangi quella pancetta tutta oleosa, chi su di grippa? Infatti io non ne prendo mai, io me lo prendo a parte. Dico, mi taglio un pezzo di polpa da lì, un bel pezzo di polpa a mano, e mi dia uno o due ossa, capito? Si buchi, no? E poi già me l'arrangio in casa. E ok, continuate, dai, ti vado a fare. Eia, vai già! Eia, fai, fai Giulio, siamo qua. Avanti, oh, Luca, Luca, che un attimino che sto telefonando all'auto. Eia, Luca! Grazie, l'altro giorno sono andato all'autospulco per sudarmi le orecchie. 102 euro ha voluto, che sono l'autospulco. Già me l'hai detto, gli bavi due daffi, una dritta a sinistra di mezzo metro. Ma via, mezzo metro cubo di legno, a una bacia all'altra. Va bene. Era che ci è andato? Non lo so, non mi ricordo come si chiama quel dottore, forse il dottor Rubo o una cosa del genere. No, io l'ho fatta da poco, ma ne avevo poco di cellule, no? Non più di tanto. Mi è uscito un pezzettino di cosa nera e basta. Mi ha detto che era poco, che non era così esagerato. Ma siccome a me mi si tappavano le orecchie, allora ero già un bel po' di giorni che mi si tappavano le orecchie, alle volte si tappavano, altre volte invece si stappavano, soprattutto la mattina. Quando mi svegliavo avevo le orecchie tappate. E allora sono andato dal medico e me l'ha tolto con la pinzetta. Presente ce l'hai due olive nere, così erano. Ma ti ha sfruttato l'acqua calda prima, così? No, niente. Poi mamma ha preso una specie di piletta, una pila con la luce e ha guardato dentro. Poi ha preso una pinzetta, prima un orecchio, poi l'altro. Tutto fatto. Te, 102 euro. Che ci fate dei ricchi vesci. Maledetti, tu immaginati se uno se ne fa una ventina al giorno di queste visite così, cosa si incassa? Non è possibile, ladri, paccare dai. E curare che avevo bisogno. Infatti, ma per dire, no, è assurdo che uno, beh, ci ha impiegato in tutto mi sta preparando, in tutto ci avrei impiegato meno di 5 minuti, ma veramente però, tutto a posto, te 102 euro, 100 euro più 2 euro di bollo, non so come motivo, anche quelli ha voluto. Ma la fattura te l'ha fatta, sì almeno. Sì, quello sì, quello già l'ha fatto. E me l'ha fatto, ma che cazzita, cosa me ne frega a me della fattura se tu mi vai a pagare una cifra così esorbitante? Vabbè, qualche cosa te la scarichi, con 7,30, se fai 7,30 qualcosa ti scarichi. Ma ci sono quelli che ti fanno pagare a volte e poi non ti fanno manco fattura. Ci sono anche quelli sono ancora più delinquenti. Per cui, quelli lì, oltre a essere ladri, sono anche delinquenti. Ci sono quelli che ti dicono, con fatture così, senza fatture così, quale vuole, tu, quale pigli, ci pigli 80 euro senza fattura o 130 con la fattura? No, se 80 euro o 130, no. Se 80 euro mi devi applicare il 20%, il 22%, se no ti sono comunque di denunciare. Sì, vabbè, un esempio, no. A me per dire me l'hanno fatto. Io sono andato a fare una visita e mi ha detto tanto è con la fattura e tanto è senza. Quale preferisce? Non so che fanno questo giochino, quello già è vero. Oh, il primo ladro è sempre lo Stato, e sia ben chiaro, quello già lo sappiamo, però questi professionisti così non hanno bisogno di fare questi giochi, perché guadagnano talmente tanto che poi alla fine in pochi anni si arricchiscono. Sì, quello sì. Grazie, avanti. Grazie, ti ha parlato Luca. Sì, sono qua che sto parlando anche con la 25. Ah, io devo telefonare all'autoagrazia perché ho portato la macchina a fare il tagliando e visto che ce l'ho detto adesso vado e mi faccio cambiare anche il filtro del gas e sono andato da Galvino perché mi servo lì. Ha aperto il cofano davanti a me, ne ha tolto il tappo e mi ha detto il tappo ti hanno sfasciato e dove l'hai portata? Hanno cercato anche di incollarlo, c'è la colla, capito? Hanno spaccato e hanno cercato di incollarlo, adesso li sto chiamando perché voglio il tappo nuovo. Non mi guidano i barbuli a me. Ah, sei delinquente, dice lui. Non è possibile. Ma no, mai, se ti si rompe il tappo, mettilo nuovo e basta, no? Al limite, anziché chiedermi, che so io, 50 euro, tanto per fare un esempio, chiedimene 52 e ti pago anche il tappo. Però tu non mi puoi mettere il tappo rotto. Ma che gente disonesta, imbecille. Ma il tappo delle punterie, quello grande, quello che c'è sul motore, quello che copre il motore, quel tappo lì non è il tappo piccolo, no? O giuro. Hanno spaccato quel tappo che va avvitato sopra la testata. Ho capito, copri punterie, sì, copri valvole, là, ho capito. Ma perché di plastica quello io già? No, c'è quello normale e poi c'è quello di plastica sopra, capito? Ah, ecco, ho capito. Comunque, ciò non toglie che quello lì sia un disonesto, questo è scontato. Sì, perché Galvino l'ha svoltato davanti a me, non posso dire manco che l'ha rotto lui, perché l'ha fatto davanti a me, l'ha svoltato e metto già, quanti hanno rotto il tappo, dove l'hai portata a fare italiano questa macchina? E ho detto all'autore, e stanno facendo il tappo e addirittura hanno tentato di incollarlo, gli hanno messo la colla bianca, si vede, hai capito? Adesso lì telefono, dico che voglio il tappo nuovo, non me ne ha finito. Risolviti, per carità, non è possibile. E vabbè, e cosa vuoi che ti dica già? Purtroppo la delinquenza è sempre in atto, a tutti i livelli, anche a livello così. Ma chi è questo Galvino? Quello che fa l'impianto del gas. No, ma non è lui che me l'hanno rotto all'auto A. Galvino, dopo che io ho fatto il tagliando all'auto A, siccome la mia va anche a gas, e io sono andato da Galvino, quello che fa gli impianti a gas delle macchine, sono andato lì a prendere niente e mi ho fatto cambiare anche il filtro del gas, così ho fatto un tagliando completo anche del gas, capito? Non è che sia niente di che, costa 30 euro un filtro, non ci vuole. E quando l'ha smontato da qualche momento, guarda già, ti hanno rotto il tappo e me l'ha fatto vedere, mi ha detto vai subito e fatelo cambiare. Anche la macchina tu l'hai pagata a manuva e dopo la devi avere quando ti fanno il lavoro. Sai cosa hanno fatto? Siccome allora c'ha 4-6 bulloni da svollare in più. C'ha un incastro, praticamente, non so se vi spiego, è un gommino che va incastrato in un buco. Quel gommino lì bisogna spingerlo col dito per farlo uscire fuori. Cosa hanno fatto? L'hanno strappato e si è spaccato, capito? Sì, ho capito già. Misuriti comunque sono. Oltre che sono pasticcioni, perché uno che fa un lavoro del genere, ma quando mai, ragazzi, te lo ti rendi conto? E non può dire che non se si è accorto, perché quello se ne è accorto e ha fatto il furbo, ha fatto. Purtroppo è così già. Vai tu e fidati, di chi ti devi fidare non lo so io. Non è possibile, guarda. Questa gente vuole controllata secondo per secondo quando stanno facendo lavori per vedere quello che ti combinano, solo che quando entra in officina dice lascia la macchina e vieni per dire stasera a tirarla e loro fanno quello che vogliono, magari ti cambiano anche i pezzi se per caso loro hanno la macchina uguale, sono capaci anche di cambiarsi i pezzi e se li mettono se li montano nella loro macchina. accettate l'officina non ti fanno entrare, perché l'officina è sulla bottiglia l'accettazione, poi loro c'è il meccanico, viene, li mette il copriscedile per non sporcarla, tutto quanto, e se la porta sulla macchina, capito? E tu non vedi nulla di quello che fanno, non è come nelle officine meccaniche che normalmente vedi. Io stamattina, quando l'ho portata a fare il cambio del filtro del gas, ho visto quello che ha fatto, l'ha svoltata davanti a me e tutto, stavamo parlando mentre lui l'ha svoltata. E infatti poi la prossima volta mi cammina più fredda, che mi sono bruciato io più russi. Lo so, purtroppo così. La ricamera più fredda, e cosa botta? Della regua in pinti, bella richiesta anche quello. Te l'ho portata a farla raffreddare, se non me la vai a fammela fa mezz'ora quando sei raffreddata, cosa vuol dire? Che discorsi sono anche questi? Tutto discorsi da gente in campagna che non sa lavorare, ma non intendo lavorare nel senso di mestiere, non sa lavorare con la gente. Ecco qual è il discorso già. Allora, stamattina ero in vena, sono andato a fargli girare le gomme anche, quelle di davanti, mettere le dietro e quelle di dietro davanti, perché la macchina ha quasi 20.000 km, quindi io ho fatto il giro delle gomme. Sono andato alla LCC, sono arrivato, non c'era un'anima viva, buongiorno, anzi prima 3 ore mi ha messo lasciare la macchina, poi fa buongiorno, ascolti, dovrei mettere le gomme davanti, dietro e viceversa, devo invertirle. Mi ha detto, ascolti, venga dietro che vi faccio sapere quando può venire. Come sarebbe a dire, adesso non me lo fa, no, adesso non c'ho tempo, non verrà nessuno. Va bene, ascolti, me ne vado, arrivederci. Ma poi se me ne sono andato, da quello che c'è più dietro, cos'è? Non è la Genovese, ma Gottardi, da Gottardi, 5 secondi mi ha fatto tutto. Giulio. Ok, tu a quello non dovevi dire, grazie. Quando avrò bisogno di cambiare le gomme mi ricorderò di lei. Per me può anche chiudere a questo preciso istante, perché per me lei non esiste più, l'avrei detto. Avanti. Giulio. Sì, avanti, Cocla. Guarda un attimino il segnale quanto. Ciao a tutti comunque, già sono qua da poco fa io, che sto facendo una cosa. Guarda il segnale quanto ti sto arrivando su quel baracchino, fa la cortesia. 18 pieno, qua, 18 pieno, modulati quasi 20. Ok, dai, va bene. Avanti Gianni, riprendi. Riprendo, riprovo a telefonare all'autore che non mi hanno ancora risposto, sono sempre occupati in officina, capito? Stasera uscire. Riprova, magari oggi lunedì, non so se chiudono presto, non lo so. Va bene, dai, continuate che sono qua, sto facendo cose, ci sentiamo dopo. Ok, già, io quando devo fare queste cose non la porto mai alla concessionaria, perché intanto quelli sono ladri e basta, la porto da meccanico di fiducia e così almeno le posso chiedere, però se ho tempo, se voglio posso stare anche davanti, perché lì da Franco che c'è lì in via Montello, cosa sì. Posso chiedergli tutto quello che vuoi, qualsiasi spiegazione. Invece quando tu vai dalla concessionaria ti chiudono la macchina all'interno dell'officina, e tu non vedi mai quello che fanno. Io l'ho preso così. E oltretutto paghi anche molto di più. Sì, anche io mi servo da Franco, però il problema è questo, che la mia era in garanzia, adesso ha finito la garanzia, Giulio, non ci torno più. Però. Non hai capito? Poi io continuo ad andare da Franco, io vado sempre lì da Franco. Sono anni che vado lì. Appunto, è un bravo meccanico, non so, è aggiornatissimo, perché tutte le volte che c'è una macchina nuova lui va fuori e partecipa alla congresso, alla scuola, che fanno appunto le spiegazioni eventualmente di qualsiasi particolare della macchina nuova, poi attrezzato al computer, tutto, non come certe officine, hanno tipo vanno 4 chiavi, hanno e soprattutto hanno poca capacità professionale. Invece Franco è in gamba, è serio, è tranquillo, ti dice vieni stasera la macchina ce l'hai, non come certa gente, vieni stasera la bui basati due lì prima di consegnarti la macchina, per carità. Ma Franco Solina è veramente in gamba, è un grande, intanto è un bravissimo meccanico, e poi è serio, almeno serio. Tu mi dirai, ma forse si fa pagare qualcosina più degli altri, e può darsi anche, però ti fai il lavoro come si deve. Io lo so, lo conosco, perché ci vado da 40 anni a questa parte. Sì, non imparare mai, Franco abitava vicino a casa mia, a Sacro Cuore, quindi lo conosco da ragazzino, a Franco fratello conosco a tutti quanti la famiglia di Franco. Io mi servo lì da tanti anni lo stesso, però il problema è che con la macchina nuova, se sei in garanzia, non puoi servirti da un altro meccanico che poi ti scade la garanzia, mi hai capito? Ma io non ci sono mai andato a fare queste cose, perché a me mi è bastato una volta, mi ricordo una volta avevo portato l'850 che aveva una volta mia moglie, l'avevo portato alla Fiat, mi consegnano la macchina e pago tutto quello che mi avevano detto. Dopo 15 giorni è arrivata una lettera a casa di andare, perché avevano sbagliato il conteggio e hanno voluto altri soldi. Questi sono quelli della Fiat, tanto per dirti una, questi delinquenti, questi ladri, cosa me ne frega se tu hai sbagliato? E dopo 15 giorni tu mi vieni a chiedere altri soldi, dopo che io ho ritirato la macchina, che non so che cosa hai fatto, sono venuto lì, ti ho lasciato i soldi che mi hai chiesto, e dopo 15 giorni vuoi ancora altri soldi, e ho dovuto dare altri soldi ancora. Io guarda, il primo tagliando che ho fatto ce l'avevo gratis, il secondo tagliando che ho fatto mi hanno cambiato l'olio, il filtro e poi il filtro dell'aria. Non mi hanno cambiato manco candele, ho pagato quasi 300 euro, 298 e qualche cosa, quasi 300 euro, ma quasi che due cazzate così costano così tanto. Ma sono tutti Ducci, anche la Renault, la macchina mia, infatti a mia figlia gli ho detto non la portare più là, che sono una massa di ladri. Infatti adesso va da un meccanico normale, non ci va più alla Renault. È vero l'Alfa Romeo allora, che ti piri. Come va? Infatti così, così veramente, ma tu sei sicuro che ti hanno cambiato l'olio, Gianni? Perché loro dicono così, mi abbiamo cambiato l'olio, magari l'olio era ancora buono, perché cosa vuoi, si fa 1000 chilometri la macchina, cosa vuoi cambiare l'olio? Ma vai, ma lo vedi che sono tutti disonesti, invece vai dal meccanico tuo personale e te la cambia lui l'olio, e loro vedi che ti sta cambiando l'olio, perché te lo fa davanti anche, oltretutto. E ti fa anche il lavaggio del motore, non cioè, i meccanici che aprono il tappo sotto e fanno scendere l'olio così, no, Franco ha anche la macchina e te lo lava il motore, fa lo scarico e poi ti mette l'olio nuovo, anche addirittura ti dice se me lo vuoi portare tu l'olio portamelo tu, mi capito Gianni? Sì, sì, sono... A me all'auto è già la seconda cosa che mi rompo, mi sono accorto del cassettino che la molla non funzionava più dopo che l'ho portata, sono andato a metterci i documenti, loro hanno preso i documenti e mi hanno sfasciato il cassetto, la molla del cassetto, non mi hanno detto nulla. Sono andato, sono ritornato e gli ho detto, ma subito, come sta uscendo dalla piazza, sono andato a metterci i documenti e non c'era la molla, non funzionava più. Sono tornato indietro e ho detto, scusi, ma io la macchina non ve l'ho consegnata così, qua c'è il cassetto con la molla rotta. Avete rotto la molla, aspetti che chiamo chi ha fatto la macchina, hanno chiamato e in effetti secondo me come l'ho smontato, che però dovevi dirlo, gli ha detto così. Adesso glielo ordiniamo, se non me l'ha detto perché non ce l'abbiamo in casa, me l'hanno ordinato, poi quando è arrivato mi hanno chiamato e me l'hanno piazzato. No, lo so, randaggi allora, so. Sono dei disastri, so, ti sto dicendo che... E poi non ti dicono nulla, capito? La cosa più brutta è che ti rompono la roba e poi non ti dicono niente. Se li va, li va. Se no, poi te lo cambiano, però intanto ci tentano, capito? Come a me porto la macchina lì a fare il cambio d'olio, filtro, Anzi, voglio una macchina, minando, ha cominciato a pipì, faccia andare le spatole ed erano consumati, tutti i graffi e gli rubretti. Torna chi dà, per favore, le spatole che ne avete staccato nuove, adesso me le rimettete, noi vediamo i carabinieri. Hai capito, me ne hanno fregato le spatole buone e mi hanno buttato un po' giù qui. Quella è truffa brutta, quella è ancora più sporca ancora. Allora, ma sicuramente sarà qualche imbecille di meccanico che c'era lì dentro, vai compri. Era nuova roba la macchina, era il primo tagliando che la stavo portando a fare. E mi ne pure le spatole, per un mese la macchina si può dire le spatole sono già consumate. Cammina con i mille spatole che guida e presta ne l'hanno bucata a più. Non ce n'è più gente onesta. Io mi ricordo quando lavoravo in carrozzeria, in carrozzeria lì sulla farina, fisso della Fiat. Però mi cavo un carrozzieri, quando da cavani la macchina, la combuciava da sotto a sopra, tutti mi su cagazzavano e rubisticava. Una volta in via Sorso, questa signora poverina spingendo la macchina, io l'ho vista, ero a piedi, gli ho detto, oh mi dica signora cosa c'è, mi ha chiamato questa qua, non mi mette in moto la macchina, ce l'avevo dal carrozziere, a poi da lì dove verrà il bidone della benzina, ci ha dimenticato il bidone, ha furato la benzina, e seppure la benzina c'è, la faccia vedere, ho guardato, ma qua benzina non c'è, secondo me li hanno succhiato, quando detto c'era il bidone con l'ubiaco della benzina ancora, gli hanno rubato la benzina, signora, gliel'hanno tolta e poi ci sono dimenticati anche il bidone dentro, manco pur mi sono stato. Quello lo facevo anche dove avevo lavorato io, quando da capire la macchina abbigliavano subito la bomba, abbassavano prima, tanto veniva l'imbizzavano i riservatori e si ammacciavano la benzina nei bigliati. Io rubato, cioè rubate nella maggior parte quasi tutti. Ebbene, grazie, cosa ti metti? Avanti un anno, zonco! Bello, sì, cosa fai di là? Sto E tanto, continua a ragionare. La ti compresa, ma cosa hai detto? Tanto, continua a ragionare, che mi ha che partito. Oggi è domani buio. Gianni, riprendi. E mi guardo il brodo. Gianni! Mamma mia, come sto! Gianni! Non c'è, è andato la Fiat! Porco è, mi partito! Oh già! No, sono Claudio! Cosa stai facendo? Niente! Grazie a Dio, detto Claudio, mi no, ehi, cosa sto facendo? Niente, sto dando nome dei connettori che mi servono, le ispezioni mi sto facendo per ammazzare il tempo. Niente di particolare. Dai, continuate, già sono qua io. Va bene, Claudio, bravo ragazzo. Grazie, bravo ragazzo. Giulio, mi è caduto sì. Giulio morto. E beh, grazie, cos'è che vuoi? Avete caduto. Non ho posato sopra. Ehi, avanti, Luca. Io faccio una cadria e io con un cuscino morbido. E Gianni che fine ha fatto Giulio? Non lo so io cosa ho fatto Gianni. Sarà andato alla via per ritirare la macchina, cosa ne so? A peso mio, mi erano tutti due rossi. Se ci fino mi ricava nel bottone, no? E li buoni liberali, e buoni. Comunque già sono tutti rotti i meccanici, ci sta poco ma sì. Con fare buttare sempre la macchina aiuta, senza nulla dritto. Ma che cosa di una cosa, che cosa preziosa della macchina? Capita, una cosa incredibile. libera di vagogna, non è possibile, non è possibile veramente, guarda. La disonestà di detraiente, guarda. A parte l'ho fatto che i meccanici vuole me ne sono sei bocche, in tutto il resto si vuole buttarsi e noi in una mano, noi in tutte e due mani, no? In una mano, tutti gli altri sono tutti i segni bulloni, e buco. Ehi, no, io la portavo a Presanese, dal bucaro di Sassari. Pagavo un bel, però puoi andare tranquillo, a chi tira via, fazia proprio bene. Cosa ti consiglio, Graziano? Bravo, vado, faccio una teglia di mezzo metro. Che bella pancetta la rimane, gaffo collo, melanzane, peperoni, tu devi andare a un tipo di conoscere, non si è fatto vedere tutti. A fare domani dopo di salugare. E fate, io a mi invito a mangiare un crudo. Ma deve avere la galluccia, a chi no che bisogna succiarlo lo crudo. No, quindi che va pensiera. Vero Giulio? Ma tu fa tu per un cacciatore? Uno, oh cacciato, ma è una pompetta, ma fai invitare i belli nell'amica a mangiare uno, però è una pompetta. Una cannuccia, viaggio da 5, da 10, da 15, da 20. Antonio Zé, ciao Antonio Zé, come ti chiama che ci bar, anche ci berri? Ciao Falcone, sì, sta piovendo anche qua. Ti ha risposto Gianni Doppio Rum, va. Vai che te fottendo, mi Antonio Zé, vai da che te fottendo, mi che so che sta già riposto. Tutti siamo già staresi, no, tutti quanti. In questo momento siamo in quattro. In quattro siamo, però uno è in stand-by, e se l'ha rombato un po' che barato, dimmi. E cosa vuoi da un casarizzo? E te? E ti ci mancherà il caramascio? Fra poco ti saranno tutti e tu remo torna tutti i gatti rompi. Oh, Andrea José, così sono andati adesso, mio nipote che sta all'istituto hanno chiuso, non li stanno più facendo uscire. C'è stato un caso di febbre a 40 che poi non era coronavirus, però da lì hanno cominciato a prendere precauzioni, adesso non li fanno più uscire dall'istituto per un bel po' di tempo. Confermo Antonio José, io lo credo già. Si mi manca una frequenza a Danca, non lo sai che è così. In Sassari è così, mi. So io che di una sera apro i cancelli con la chiave di Santo Brito. A parte lo manda da Anzi, mi aspetta, che si prende il brodo. A chi tra noi si deve ciucciare un brodo con una cannuccia. Avanti, grazie. Ehi, brodo di manzo, siotta, carote, sellaro e patato, chi ti fa di giorno un mattato, così diciamo il zio. E siotta non è buono. Un capo di siotta bianca da giubbotto, matura. A me nello brodo che ci mi piace di più la siotta, la cosa che mangio più volentieri, della carne di tutto. Si sente il profumo della zionda, ma lo sai, è proprio buono qui. E da poi il brodo è dolce, è buona,